Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi parliamo di una meta che sicuramente sarà stata nel calendario di molti di voi in queste settimane o lo sarà nei prossimi giorni, cioè Pompei. E troviamo questa città nel libro di Eva Cantarella, che è una storica greco-romana, e di Luciana Iacobelli, che invece è un'archeologa. Il libro si intitola Pompei è viva, è pubblicato da Feltrinelli, 222 pagine, 16 euro. Troviamo qua un'introduzione completa e appassionante alla città campana che, come ricorderete, fu distrutta dall'eruzione del Vesuvio del 79 e che oggi è di nuovo minacciata dalla nostra incuria. Il libro non è naturalmente una guida turistica, ma direi non è solo una guida turistica, perché la seconda parte contiene infatti delle storie e delle schede che consentono al lettore di penetrare in alcuni dei luoghi più suggestivi e più importanti della città. Nella prima parte invece troviamo uno spaccato della vita di Pompei, della Pompei romana. Si parla della vita familiare, della vita politica, dell'economia, della vita religiosa e poi di quelli che chiameremmo i servizi pubblici, di come si viveva nella città e di come ci si divertiva. E ne emerge un quadro molto vivace di Pompei e autentico, che fa da contraltare ai tanti miti, alle tante leggende sulla città che qui vengono anche rimesse in discussione per cogliere gli aspetti inventati al fine di aumentare l'impatto che le rovine maestose di Pompei determinano su qualunque visitatore. Ma di questo parliamo adesso con una delle autrici. Buongiorno a Eva Cantarella. Buongiorno. Eva Cantarella, uno dei primi paragrafi del vostro libro si intitola La gestione del sito, la gestione di Pompei, e in questo paragrafo naturalmente si parla di quello che sta succedendo, della storia degli scavi di Pompei che, come scrivete, è costellata da innumerevoli episodi di degrado. Ecco, a che punto siamo sulla gestione di Pompei? Beh, siamo al punto più basso forse, siamo veramente in una situazione disastrosa. La tragedia è che a Pompei non si fa più manutenzione del sito da anni, niente, non si fa più manutenzione, quindi questo vuol dire un degrado continuo e inarrestabile, al quale veramente sembra difficile capire come si possa rimediare. Nel frattempo, per esempio, succede che a Londra ci sia una grande mostra su Pompei che accoglie milioni di visitatori, insomma il fascino di Pompei rimane incorruttibile, però la città la stiamo corrompendo. La città la stiamo distruggendo, nel senso che se andiamo avanti così Pompei scomparirà, non ci sarà più. Fra 100 anni questa meravigliosa città, unica al mondo, veramente unica al mondo come tutti sanno, in ogni caso quello che sta succedendo a Londra lo dimostra, no? Beh, non ci sarà più, perché viene giù a pezzi, insomma, viene giù a pezzi. Si ricorda la Schola Armaturarum qualche tempo fa? Certo. Per non parlare spaventosi fatti del periodo del commissariato dal 2008 al 2010, non so, io le assicuro, io sono andata a vederlo, andare a vedere il Teatro Grande come è stato distrutto perché ci dovevano fare, non mi ricordo quale spettacolo, sai, il modo di rilanciarlo era fare grandi eventi nel teatro, non mi ricordo se doveva andare a Muti o Zeffirelli, adesso dico i nomi a caso, non saranno questi. E quindi dovevano fare andare la gente, hanno ricostruito i gradini, insomma con materiale moderno. Il teatro non esiste, è un'altra cosa, viene da piangere. Nel vostro libro voi smontate alcuni miti e leggende su Pompei, sì, che è già un luogo straordinario di suo, che però ha avuto anche bisogno di queste leggende. A che proposito, per quale motivo sono nate queste storie? Ma nascono da un fatto, da qualche cosina, per esempio la storia della matrona del gladiatore, no? E beh, si trovano dei gioielli, ci trovano dei resti di persone che cercavano di mettersi in salvo dall'eruzione e alcuni gioielli in un certo punto che è vicino al posto dove dormivano i gladiatori. Quindi si parte da un evento e lì cominciano il racconto. Molte volte sono le stesse guide che raccontano e che attorno a questo costruiscono e poi la cosa comincia ad andare avanti e adesso ormai, quando si va a Pompei, quando si arriva lì, c'è la guida che ti racconta della signora che si era innamorata del gladiatore, che era andata ad avere un incontro con lui e che è morta, come tutta la storia romantica della del Signore del Gladiatore, nascono così. Il libro però documenta anche in maniera molto analitica e divulgativa, peraltro, la vita di una grande città romana, per esempio si parla dei rapporti sociali, della politica, ecco, quali sono gli aspetti più interessanti da questo punto di vista che ci offre ancora Pompei? Ma guardi, sono tantissimi. Io credo che la ragione per cui poi abbiamo chiamato il libro Pompei è viva è proprio questo. La caratteristica di Pompei è che, a differenza di ci sono anche tante altre città antiche delle quali sono rimasti resti una volta meravigliosi, spettacolosi, ma nessuna di queste città ci racconta la storia dei suoi abitanti come ce la racconta Pompei. Perché a Pompei, dato il modo in cui è scomparsa, questo che l'ha resa così unica, no? Sono rimaste le tracce della vita quotidiana di queste persone. Per cui attraverso, da un lato, le pitture nelle case e i graffiti, i famosi graffiti. Lei sa che i pompeiani erano dei graffitari, scrivevano sui muri moltissimo e scrivevano tutto sui muri. Allora, attraverso questi documenti, le pitture e le scritture, noi sappiamo cosa succedeva quando c'erano le elezioni amministrative nella città, sappiamo in che modo si faceva la propaganda elettorale, per esempio, no? Che tra l'altro a Roma e quindi anche a Pompei non veniva fatta dal candidato, ma veniva fatta dai suoi sostenitori, e quindi vediamo cosa si scrive a sostegno, chi scrive, per esempio, interessante, ci sono molte iscrizioni propagandistiche in occasione delle elezioni in cui ci sono delle donne che firmano e dicono vota per il tal dei tali, non avevano capacità politica, ma scopriamo che le donne pompeiane si interessavano di politica. Le pitture, altra cosa interessantissima, le pitture, le famose pitture delle terme suburbane che ha scavato proprio la Luciana Iacobelli, la mia coautrice. Queste pitture che hanno fatto il giro del mondo, perché sono considerate pitture, cioè sono le pitture erotiche, e ci dimostrano, così come altre cose relative alla pittura che poi magari posso dire, che la differenza enorme di concepire il sesso tra i pompeiani e noi, potremmo dire più in generale nel mondo pagano e nel mondo cristiano, dove si scopre appunto grazie a queste pitture, che il sesso non c'era assolutamente, non c'erano i tabù che oggi ci sono attorno al sesso, che il sesso poteva essere anche argomento di divertimento, di gioco, di scherzo, perché nelle terme suburbane ci sono delle pitture erotiche interessantissime che servivano per riconoscere, messe su dei cassettoni che stavano appoggiate a un muro, per riconoscere la cassa, il contenitore nel quale uno metteva i suoi vestiti, in modo che invece del numero c'era una certa figura erotica. Questo è un modo scherzoso, divertente di vivere il sesso, completamente diverso dal nostro. Altra cosa, non era peccaminoso, ci sono pitture erotiche, quadri erotici che stavano nelle case di coniugi per benissimo che le avevano in camera loro, quindi tutto un altro modo di vedere il sesso. Quindi queste sono le cose particolari di Pompei e che la rendono assolutamente unica al mondo. Nel vostro libro ci sono poi delle schede sui luoghi di Pompei. Sì. Di questi luoghi qual è quella che le piace di più, la intriga di più di Pompei? Beh, devo dire, ce ne sono talmente tante. Io mi sono proprio innamorata di queste terme suburbane. Le terme suburbane sono assolutamente straordinarie. Purtroppo sono degradate anche loro moltissimo. Ma o la Villa dei Misteri, per esempio. Ma le terme suburbane sono le mie preferite, devo dire, sto pensando, per le ragioni che dicevo, perché ci consentono di capire il modo, intanto ci fanno vedere come sono delle terme pubbliche, no? Delle terme alle quali tutti avevano accesso, ci fanno sapere che le donne potevano accedere, forse a ore diverse, forse a ore nelle stesse ore degli uomini, questo non si sa, ma sappiamo quello che accadeva nelle terme e che come si passava da un edificio, da una sala all'altra, come si scherzava, appunto le dicevo, per esempio attraverso i riferimenti a queste pitture che sostituivano i numeri, insomma ci fanno vedere veramente un pezzo di città viva. Ecco, un consiglio ai nostri lettori: come accostarsi a Pompei, oltre che col suo libro e quello di Luciana Iacobelli? Come accostarsi a Pompei? Camminando, il nostro libro può aiutare, spero. Ah, ecco, l'altra cosa volevo dire a proposito dei miti. L'altro mito è quello di città del peccato, città piena di lupanari. Non è vero niente. I lupanari erano uno o due al massimo, così come in tutte le città romane c'erano i lupanari, no? In tutte le città probabilmente del mondo. E quello è l'altro mito da sfatare. Dicevo, ma come? Come passeggiando, camminando per le strade, entrando nelle domus, proprio diciamo passeggiando come se fosse una città di oggi, e fermandosi agli angoli quando si vede una taverna, che sono queste praticamente, diciamo, sarebbe come un bar di oggi o un posto dove ci si fermava spesso all'angolo di una strada per o mangiare qualcosa oppure per bere, e lì, ecco, passeggiando e si vede benissimo, ci si può immaginare benissimo la vita dei pompeiani camminando, passeggiando e guardando. Grazie a Eva Cantarella, autrice con Luciana Iacobelli di Pompei e Viva. Buona domenica. Grazie a lei. E su Pompei vi segnalo che sono usciti due nuovi titoli nella collana Pompei, nel segno di Iside e l'arte di abitare, una collana pubblicata da 24 Ore Cultura, una società che appartiene al gruppo proprietario di questa radio. I libri sono curati da Cinzia Dalmaso. Un libro insolito sulla classicità per i viaggiatori che magari vogliono accostarsi alla Grecia, in questo caso in maniera insolita, è quello di Dino Baldi e Marina Ballo Charmé. Oracoli, santuari e altri prodigi, sopralluoghi in Grecia, pubblicato da Quodlibet Humboldt, 200 pagine, 19 euro. Gli autori sono il primo un classicista, la seconda un artista che pubblica qui alcune sue foto di un'escursione in Grecia. E ci offrono una guida molto particolare su quel paese. Non troviamo qui l'elenco di monumenti, ma un modo diverso per accostarci alla civiltà greca attraverso i luoghi più celebrati dal mito. Gli autori insistono perché il libro inviti a effettuare in Grecia un autentico viaggio, cioè un'opportunità di sorprenderci, senza invece cadere nella tentazione di pensare necessariamente di effettuare, come scrivono essi stessi, un pellegrinaggio o una visita guidata alla culla della civiltà occidentale. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, parliamo adesso di tre bei romanzoni americani. Il primo è di uno dei più noti scrittori statunitensi, Richard Ford, che ha pubblicato Canada con Feltrinelli, 426 pagine, 19 euro, tradotto da Vincenzo Mantovani. Qui siamo nell'America del Nord, tra il Montana e il Canada, appunto, dove si dipana l'incredibile avventura di un quindicenne figlio con una sorella gemella di una coppia male assortita. Lui è un ufficiale poco gentiluomo, lei è convinta di essere superiore al marito con velleità intellettuale. Tutti e due combineranno un bel pasticcio, perché lui è rimasto senza lavoro per piccoli traffici che vengono scoperti, convince la moglie niente di meno che a organizzare una rapina. Naturalmente saranno arrestati dopo pochi giorni e i due ragazzi rimangono completamente soli. Per non entrare in qualche riformatorio, in qualche orfanotrofio, la ragazza fugge e invece il maschio, il protagonista del libro, viene accompagnato da un'amica della mamma clandestinamente in Canada dal fratello, appunto, di questa donna, e trova qui un luogo certamente desolato. Viene coinvolto nelle settimane in cui rimane in Canada in una storia che si rivelerà una storia difficile in certi versi, atroce, e poi il libro avrà un lieto fine, perché il ragazzo, sapremo, che in Canada ha fatto a modo suo fortuna. Il ragazzo infatti voleva studiare a tutti i costi, ci riesce, diventa un professore universitario e si ferma appunto in quel paese. Qui troviamo la cronaca puntuale di questo destino che sembra, in quei mesi di fuga da casa propria, accanirsi contro il protagonista, il quale comincia però a imparare che la lettura della realtà può essere sempre ambivalente, come spiegano le righe che adesso vi propongo del libro di Ford. È stata mia abitudine nel corso di questi anni riconoscere che ogni situazione in cui sono coinvolti esseri umani può essere rovesciata. Tutto ciò che qualcuno mi assicura che è vero potrebbe non esserlo. Ogni articolo di fede sul quale poggia il mondo può essere o può non essere in procinto di esplodere. La maggior parte delle cose non rimangono molto a lungo come sono. Saperlo però non mi ha reso cinico. Cinico significa credere che il bene non è possibile. E io so con certezza che il bene è possibile. Semplicemente non do nulla per scontato. E cerco di essere pronto per i cambiamenti che presto verranno. Proprio in Canada, Del Parsons, questo è il nome del protagonista, imparerà che la vita può essere piena di cose elettrizzanti prima che ciascuno muoia. Presta dunque attenzione al presente, gli consiglia la persona dalla quale si trova rifugiato in Canada. Non scartarne dei pezzi, assicurati di avere sempre qualcosa che non ti dia troppo fastidio perdere. È importante, cerca una vita normale, vuole andare appunto a scuola, vuole giocare a scacchi, vuole allevare le api e si sforzerà attraverso i tentativi di costruirsi una vita normale di trovare un significato in tutta le difficoltà che ho dovuto affrontare, come scrive Ford, di carpire una rivelazione come se ne avessi bisogno. Ci prova anche rivisitando i luoghi che lo avevano visto fuggitivo da giovane, ma non riuscirà in questo tentativo. E quindi il protagonista conclude il libro con queste parole: credo che quello che vedi sia quasi tutto quello che esiste, come ho insegnato ai miei studenti, e che la vita che riceviamo sia vuota. La critica ha salutato questo libro come un capolavoro della stagione letteraria degli Stati Uniti. Un altro grande romanzo, anche questo dal successo addirittura planetario e anch'esso ambientato negli Stati Uniti, come in parte quello di Ford, ma di un autore svizzero di lingua francese, è La verità sul caso Henri Kebert. L'autore è Joël Dicker. Il libro è tradotto da Vincenzo Vega per Bompiani, 780 pagine, 19,50 euro. Un romanzo americano, dicevo, per modo di dire, perché l'autore l'ha scritto in lingua francese, ma ha avuto anche negli Stati Uniti un enorme successo. E possiamo anche considerare il libro come un giallo, perché si parla di un giovanissimo autore americano che ha avuto uno straordinario successo con il suo primo libro, che gli permette di entrare in una fase della vita di straordinaria ricchezza e di grande felicità. Ha venduto appunto milioni di copie, ma al momento di onorare il contratto che ha firmato con l'editore di scrivere altri libri, e quindi al momento di mettersi a scrivere il secondo libro, non ci riesce. La sua penna si è bloccata e non riesce a scrivere una sola sillaba. Allora, quando la scadenza per la consegna del contratto si avvicina, il protagonista si reca a trovare il vecchio maestro, che è considerato forse a sua volta il maggiore scrittore americano, che anche egli aveva avuto uno straordinario successo con un romanzo giovanile. Ma qui il colpo di scena: appena infatti il protagonista va a trovare il maestro, appunto Henri Kebert, questi viene arrestato, perché nel giardino della casa viene scoperto il cadavere di una ragazza che era misteriosamente scomparsa molti anni prima, e si scopre che la ragazza all'epoca quindicenne era follemente innamorata dello scrittore, di Kebert, ricambiata, e dunque il cerchio pare stringersi implacabilmente intorno al maestro, che viene arrestato e vede la concreta prospettiva di finire sulla sedia elettrica. Qui entra in scena il giovane allievo, che si mette di buzzo buono per salvare Kebert, per ricostruire la vicenda. Non crede affatto alle responsabilità del suo maestro e cerca anche il modo di salvare se stesso, perché spera con questa ricerca di poter avere l'ispirazione per scrivere il famoso secondo libro. E allora questo libro diventa un po' un misto tra Nabokov e Simenon. Nabokov perché abbiamo la cronaca della passione per questa ragazzina, e Simenon per la capacità di ricreare il clima della profonda provincia, in questo caso americana, pronta a passare dall'entusiasmo per il grande scrittore alla condanna preventiva e senza appello. E lo stile del libro è molto caratteristico, perché esso si sviluppa su molti piani narrativi, vengono scandite i vari capitoli dalle 31 lezioni che il vecchio scrittore fa al giovane, e poi il piano narrativo si sviluppa con dei rimandi a lettere, a scritti di Kebert, a brani dei libri dei due autori. La lettura, insomma, è appassionante, segnata da colpi di scena a ripetizione che non vi risparmieranno fino praticamente all'ultima pagina del libro, e questo spiega il successo che esso ha avuto. Il terzo romanzo, questo tutto americano perché l'autrice è americana, Elizabeth Strout, e la scena e lo stesso romanzo si svolge tra il Maine e New York, è I ragazzi ragazzi, Burgess, è pubblicato da Fazzi, 446 pagine, 18,50 euro, tradotto da Silvia Castoldi. Qui abbiamo la storia, una storia per così dire al contrario, tre fratelli apparentemente appagati si ritrovano per assistere il nipote, il figlio della sorella, un quindicenne che non avendo nulla di meglio da fare ha buttato la testa di un maiale in una moschea somala. Naturalmente viene linciato dall'opinione pubblica e la madre lo affida anche dal punto di vista giudiziario agli zii, che sono entrambi avvocati, uno un avvocato di grande successo, un nome a New York, e l'altro invece meno gradasso e meno riuscito che fa il patrocinatore gratuito. Ne nasce una storia ritroso del rapporto tra i tre e tra i figli e il padre, della cui morte si sente responsabile uno dei fratelli. E il nuovo rapporto che si crea e la riflessione sugli anni passati li porta a ripensare il modo stesso di stare al mondo, come dimostrano queste righe sulla reazione di Bob alle rivelazioni familiari. Era aprile e anche se le giornate erano spesso fredde, c'era un rigoglio nelle forsizie che sbocciavano nei giardini, nei cieli che a volte rimanevano azzurri tutto il giorno, perché marzo aveva avuto i suoi momenti di freddo e pioggia record, seguiti dalla peggiore nevicata di tutto l'inverno. Ma ecco aprile, e nonostante le notizie secondo cui la bolla immobiliare aveva iniziato a sgonfiarsi, nulla a Park Slope sembrava in fase di contrazione. Coloro che passeggiavano per il giardino botanico di Brooklyn, chiamando a gran voce i bambini per indicare loro la collina dei narcisi, sembravano tranquilli, sereni. Il Dow Jones Industrial Average, dopo una serie di slittamenti caotici, registrò una nuova crescita record. Bob Burgess non faceva caso a tutto questo. I mercati finanziari, le previsioni di sventura, le forsizie che crescevano lungo i muri della biblioteca, i giovani che sfrecciavano sui rollerblade. Se appariva confuso, era perché lo era. Si dice che chi soffre di amnesia perda non solo la capacità di ricordare il passato, ma anche quella di immaginare il futuro. E in un certo senso, per Bob, era proprio così. L'incredulità di fronte alla scoperta che forse il suo passato non era quello che pensava sembrava compromettere in lui la capacità di comprendere ciò che gli stava davanti, e trascorreva parecchio tempo a camminare per le strade di New York. Il moto lo aiutava. E a questo punto il confettino. Vi presento un romanzo, questo è un romanzo per ragazzi, di Maria Pia Veladiano, che è una preside, e si intitola Messaggi da lontano. È pubblicato da Rizzoli, 178 pagine, 15 euro, con le illustrazioni di Zosia Zierzavska. E qui abbiamo una serie di misteriosi cartelli che dà filo da torcere a un gruppo di quattro ragazzi che si troveranno immersi anch'essi in una sorta di giallo. E con questo ringrazio Luca Cremonese, redazione, Filippo Regi, regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica, un libro @radio24.it, e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre ascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi auguro buona domenica e vi do appuntamento la settimana prossima.